Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Stupisce, diverte, spiazza, fa riflettere e sorridere. Conoscete qualcuno o qualcosa capace di fare tutto questo? Pensateci bene, se la risposta è sì, secondo me siete donne e uomini fortunati. Se la risposta è no, cercate bene e nel frattempo seguiteci, perché in studio qua con me c'è Lella Costa. Ciao Lella! Ma ciao, ma buongiorno, ma che bella introduzione! Hai visto? E vado, perché io davvero mi rallegro di cuore ad averti qui con me oggi, perché tu sei come una specie di sorriso, che è il titolo del tuo nuovo libro, ma è una frase che ben ti descrive e ben racconta l'effetto che tu fai sulle persone, sulla gente, perché riesci sempre, e riprendo i verbi con cui ho iniziato la puntata, che ho preso proprio dal tuo libro, a stupire, divertire, spiazzare, far riflettere, sorridere, proprio come fa l'ironia, di cui tu sei signore, maestra. Io intanto di nuovo grazie, di nuovo buongiorno. Io semmai sono allieva, perché l'ironia un po' ci nasci, un po' te la vai a cercare, la vai a scoprire, la riconosci, e questo piccolo libro era anche un modo per fare dei ringraziamenti, dei riconoscimenti a chi mi è stato maestro di ironia, a cominciare dall'autore originario di quel verso, come una specie di sorriso, che è Fabrizio De André, autore immenso, credo si possa dire poeta senza scandalizzare nessuno, ma anche uomo di perfida ironia, veramente una carogna da quel punto di vista, e passare una serata con lui voleva dire essere davvero messi sulla graticola, ma con questa intelligenza, questa capacità di sguardo sghembo e come una specie di sorriso, oltre che essere secondo me appunto una buona raffigurazione di quello che suscita l'ironia, è anche la dimostrazione di come per esempio De André sia riuscito, come una specie di sorriso viene dal Pescatore di De André, canzone famosissima, credo l'unica, poi qualcuno magari mi smentirà, l'unica canzone nella storia della canzone italiana in cui il pescatore non è dominato dalla sfiga, diciamolo, perché sennò il pescatore sta in mezzo al mare, gliene succedono di ogni, non pesca un pesce per giorni, la barca torna sola, la moglie o fidanzata a casa è di debolissima virtù, quindi si fa tentare da chiunque. Il pescatore di De André, uomo dotato di ironia, sia De André che il pescatore, vince semplicemente con una specie di sorriso, che mi sembra un bellissimo segnale, sì, un bel inizio, un buon inizio. E noi per lanciare la puntata di oggi abbiamo invitato gli amici su Facebook a darci una definizione di ironia. La cosa non è molto semplice, no. Ma io butto ancora l'invito, lo lancio ai nostri amici che ci stanno ascoltando, invitandoli a chiamarci all'800 24 00 24, perché commenteremo le definizioni che arrivano su Facebook e quelle che arrivano al centralino di Radio 24 con Lella Costa. Posso dire subito quella che io avrei voluto scrivere, ma che invece ho soltanto incontrato e che secondo me bisognerebbe mettere nei libri di testo di tutte le scuole, che è di uno scrittore meraviglioso che si chiamava Romain Gary, e lui ha scritto che l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Secondo me è difficile far meglio di così, perché è proprio c'entra perfettamente il cuore e il senso, poi naturalmente è anche cose molto più lievi, però questa cosa della dignità è anche declinata nelle cose più quotidiane, più semplici, anche meno, è importante, sei tu che ti riappropri della tua vita e non ti fai sopraffare da quello che capita. Quindi la definizione per me è quella, sì, è già carità, l'hanno poi scritta, però io vi invito, abbiamo due libri di Lella Costa, che a cui naturalmente dovrai autografarli con dedica ironica eccetera, però siamo vicino al Natale, la libreria di Essere Benessere è a vostra disposizione, quindi vi sto chiedendo una cosa difficile, dare la definizione di ironia, però come si dice sarete premiati, quindi chiamate all'800 24 00 24. Ironia della sorte, Lella, ci troviamo proprio a parlare di ironia oggi, il 21 dicembre, per fortuna l'ironia ha prevalso sulla paura. Ma insomma è stato fin troppo facile fare dell'ironia su una roba del genere, e io devo dire che un pochino non mi sarebbe dispiaciuto in fondo, perché se tutto questo casino che abbiamo messo in piedi e che ci ostiniamo a chiamare mondo doveva finire, sarebbe stato bello davvero che succedesse, no? Credo che sia la speranza di tutti, ce ne andiamo tutti insieme, non ci sono distinzioni né geografiche né di nessun tipo, di razza, di religione, né. Poteva essere una grande festa, ma insomma una grande festa, e invece toccherà concludere come concludevano i leggendari nomadi tanti anni fa, tra mille secoli almeno, ma noi non ci saremo. Oh mio Dio, Io non sono mai stata tanto felice di vedere qualcuno in tutta la mia vita. Questa giornata è stata bestiale. Questi colloqui di lavoro sono un incubo, Troy. Ecco, per esempio, definisci l'ironia? È quando il vero significato è il contrario di quello letterale. Ma dove eri quando avevo bisogno di te oggi? Abbiamo rubato questa definizione di ironia da giovani carini disoccupati e passo subito alla parola perché voglio capire qual è la definizione che ci dà dell'ironia a Giovanna Luini. Ciao Giovanna, benvenuta. Ciao. Ciao, è la fine del mondo essere con voi, sono felicissima. Scrittore, medico e comunicatore scientifica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Lella scrive nel suo libro che l'ironia è un esercizio quotidiano di sopravvivenza. Infatti l'ironia non cura ma aiuta, e tu come medico lo sai bene. L'ironia aiuta, e l'ironia è qualcosa che nasce spontaneo quando c'è il dramma. Ho imparato tantissima ironia e ho migliorato quella forse che ho avuto in dote grazie al mio lavoro con le persone malate di tumore, perché le situazioni difficili sono capaci di scatenare un'ironia meravigliosa. L'altro giorno ho salutato una signora che è uscita dal mio ambulatorio, le ho detto buongiorno, ho imparato a non dire arrivederci naturalmente visto il contesto, la signora mi ha abbracciato e mi ha detto sì, penso che ce la farò senza rivederla, ed è stato bellissimo. Comunque l'ironia non è lo scherzo, l'ironia è la capacità di vedere una situazione da tutti i suoi lati o da tutti gli angoli, se preferite l'angolo, e secondo me è la completezza di visione. Quando impari a essere ironico significa che hai capito che quella situazione non ha una sola faccia. La persona malata, per esempio, non è la malattia, è la persona. Ciò che ripetiamo e tentiamo di ripetere tutti i giorni è che la persona resta persona con tutte le sue passioni, gli amori, le gioie, anche le debolezze, anche in presenza di malattia. Quindi non si diventa mai il dramma che si vive, si resta se stessi. E forse l'ironia è il modo per ricordarcelo. Lella. Sono entusiasta, trovo che sia davvero un approccio straordinario e credo che sia anche un punto di arrivo al quale tutti noi un pochino ci dobbiamo dedicare, no? Che in generale in tutti gli aspetti della vita ognuno di noi possa sempre essere considerato nella sua complessità e non una somma di sintomi o di possedimenti, no? Cioè io sono quello che ho, io sono quello siamo meglio di così, nel bene e nel male. L'ironia è un modo intelligente per essere seri, di essere seri. L'hai scritto in quarta di copertina, e che vuol dire che per essere ironici bisogna essere abbastanza intelligenti. Questo è un domandone. Perché io penso di sì, ma perché è una questione di codici, cioè l'ironia è una cosa abbastanza sottile e prevede appunto che padroneggi la capacità di cogliere un significato e ribaltarlo, come diceva il ragazzo del film di prima, no? Sì. E quindi questo prevede una certa, credo, sveltezza, bei collegamenti neuronali, quelle robe lì. Non è facile. Posso aggiungere una cosa? Ma devi. Credo, sempre io pratico il dubbio come arte suprema, credo che non ci possa essere ironia senza autoironia, nel senso che se non la riconosci in te, certo, è difficile che poi la riconosci altrove o negli altri, ecco, però... In linea con noi, vediamo come la pensa, c'è il nostro professor Piero Barbanti. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Un grande onore, perché è l'unico uomo ammesso oggi in trasmissione. Un grande onore per lui. Sì, infatti. Ma anche per noi, dai. No. Spero che non sia ironico questo. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana. Insomma, per capire e per fare ironia ci vuole testa, cervello. Professore, che cosa rappresenta l'ironia per un neurologo? Da dove nasce? Ah sì, cominciamo un po' da lontano. L'ironia è un gioco intelligente, forse l'unica forma di gioco che è consentita all'adulto, ed è bello farla, ed è bello anche per chi non sia così capace nel produrla, ma abbia la capacità per decodificarla. È bello sentirla come il controcanto che noi sentiamo in alcuni motivi che magari ci emozionano. Io qui forse stupirò, però insomma l'ironia ha degli addentellati molto stretti, neurologicamente parlando, con le bugie. Tutto sommato l'ironia si basa sull'uso del paradosso, nell'etimologia greca paradoxa, contro l'opinione, quindi sostanzialmente, e questo è dimostrato negli studi sul funzionamento cerebrale, avere proprio similitudini con la menzogna, con la bugia, cioè per essere ironici occorre sapere e poi sulla base di ciò che si sa, e quindi già ci vuole un cervello evoluto, occorre saperci ricamare sopra, cioè sapere mentire. Beh, la zona del cervello che fa l'ironia, dicevamo è la stessa che produce le bugie, è la neocorteccia, il nome lo fa capire, una parte del cervello che si sviluppa tardivamente, che è presente solo nell'uomo e in pochi altri primati, e nella parte anteriore del nostro cervello. Pensate, questa zona del cervello frena gli istinti. Quando noi siamo piccoli non controlliamo per esempio la pipì, poi la corteccia prefrontale cresce e blocca gli istinti fisici, mentre invece fa sviluppare i bizantinismi mentali. Quindi un soggetto ironico è un soggetto che utilizza moltissimo la neocorteccia frontale, così come il soggetto che mente sapendo di mentire. Quindi la prossima volta utilizzi bene la tua neocorteccia. Io la mia neocorteccia sono pazza di lei e ne avrò cura. Non mi stupisce questa analogia non tanto con la menzogna, ma io direi, dato il mestiere che faccio, con la finzione, nel senso che c'è una sorta di prevenzione. La gente dice che brutto finge, tutti noi fingiamo, nel senso che adattiamo la nostra comunicazione a seconda dell'interlocutore, a seconda delle situazioni. La finzione ha a che fare con la forma, e la verità o la falsità hanno a che fare con la sostanza. Però vorrei buttare là una sorta di comma che poi potrebbe diventare un comma 22, che si morde la cosa. Cioè, allora, possiamo dire che chi è ironico probabilmente è capace di dire le bugie, però non è detto che quelli che dicono le bugie siano ironici. Ecco, questo mi sembra assolutamente da precisare, professor Barbanti. Senza dubbio, certamente, ma io consideravo l'aspetto nobile della bugia. La bugia è un qualcosa di possibile solo nei cervelli sviluppati e non malati, perché ha funzioni diplomatiche. La diplomazia, qui non è spararla grossa, ci sono le neuroscienze che lo dimostrano, è basata sulle mezze verità, cioè sulla capacità di non dire tutto. Quindi il termine in cui io lo intendevo era ovviamente un'accezione positiva. Ma infatti parlerei più che di bugia, poi scientificamente è vero, ma parlerei di creatività. La creatività ha bisogno di inventare cose per essere creativi, e quindi per salvarci da una normalità un po' piatta e forse un po' poco intelligente, dobbiamo creare. Professor Barbanti, è innata o si acquisisce nel tempo? Direi che attenzione, lei non so se ha letto il libro di Lella Costa. No, non minacciamolo, poverino, no, scusa. Ecco, allora vada libero. Ma vada non libero. Si preoccupi, lo vada. Ma direi che nessuno di noi nasce ironico, perché da neurologo parlo, certe zone del cervello non sono mature, ma insomma nello sviluppo senza dubbio l'ironia in noi cresce, ma non è una dote purtroppo di tutti. Ci sono queste personalità meticolose, un po' sospettose, un po' rigide, quelle che noi chiamiamo psicorigide, che hanno sostanzialmente l'autoriferimento, cioè tutto ciò che accade è riferito a sé, e quindi vivono a una sapienza senza gioia, non sono ironiche. Però per esempio ci sono delle condizioni, chi ha avuto traumi cranici e così via, in cui il danno di queste zone del cervello che controllano la nostra ironia possono determinare un calo di questa virtù. C'è da dire che però alcune volte anche fisiologicamente chi è ironico può non esserlo più. Sapete quando è? Quando siamo stanchi, perché la corteccia prefrontale è come un grosso ferro da stiro, assorbe tantissima energia, e quando calano le nostre energie la sua funzione di freno degli istinti corporei cala, e la sua capacità di pungolo sulla nostra creatività cala. Quante volte noi diciamo, senti, basta perché sono stanco, non ho voglia di fare ironia. Quindi anche l'ironico in estremo stress, visto che è una funzione così cervelli virtuosi, ma che consuma energia, anche il soggetto ironico nella stanchezza può perdere questa sua virtù. Grazie professor Barbanti per essere stato con noi. Grazie Lella, a voi. Ti è piaciuto il professor Barbanti, che ci ha fatto fare un viaggio in lungo e largo tra le cortecce, le aree? Poi non ho ovviamente elementi per controbattere, e mi sembra che vada tutto benissimo. Credo però che a fronte di uno sviluppo fisiologico della corteccia anteriore, come si chiama lei, ci possano essere però delle buone contaminazioni. Io non credo che si possa insegnare l'ironia, ma credo che si possa contagiare, credo che si possa praticare. Dunque, per esempio, secondo me nei bambini è molto facile invece tirarla fuori, o appunto non insegnarla, ma proprio perché, se tu hai questo atteggiamento. Perché se la pratichi contagi. Secondo me un po' sì, e comunque questa cosa dell'autoreferenzialità che è sacrosanta, i soggetti autoreferenziali sono di una noia mortale, e che è una tendenza del bambino, no? Perché il bambino prende se stesso a misura delle cose, e se tu riesci non a distruggergliela, per carità, ma a essere un po' più sghembo, a provare a proporre degli altri punti di vista, i bambini si entusiasmano, perché nei bambini la creatività, di cui parlava Giovanna giustamente prima, è una roba a mille, a 360 gradi. Io mi ricordo, non so, quando con una figlia piccolissima delle mie, che mi stava dicendo con molto accoramento che le era successa una cosa, guarda mamma, una cosa tremenda, ma guarda, ma tremenda, ma più che tremenda, e io ho buttato lì un quattro menda e lei ha riso. Grazie professor Barbanti. È caduto? È caduto, spero, è caduto, solo la linea, non lui. Perché abbiamo, allora, hai visto che abbiamo una citazione che potremmo dedicare al professor Barbanti dal libro Come una specie di sorriso: dietro ogni grande uomo c'è una donna stupefatta. 800 24 00 24. Abbiamo Roberto della provincia di Lucca, Isabella da Roma e Rinaldo da Trento. Aspettiamo naturalmente le vostre definizioni anche su Facebook. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi sentite? Sì. Io buongiorno, intanto saluto tutti, saluto la signora Lella Costa che amo tantissimo. Ma grazie. Allora, io chiamo dalla provincia di Lucca perché lavoro qua, ma sono livornese, quindi oltre ad essere proprio toscanaccio c'è anche l'aggravante della livornesità, no? Che insomma, se conoscete Livorno, penso sia un posto dove di autoironia soprattutto ce n'è tanta. Io, la mia definizione che ho dato stamattina di ironia è questa, che secondo me è un soppalco sopra la tragedia, nel senso che soppalco perché comunque quando sei ironico ti senti a proprio alto, ti senti più, no, distaccato nel senso elevato rispetto alla tragedia, che può essere poi di tutti i tipi, e quindi è un po' questa, no, il mio pensiero è questo qui, che poi è supportato da tanti episodi vissuti durante la vita, no? Quando non sai più che pesci prendere, fai la battutaccia e tutti ridono e sdrammatizzi. Roberto, quindi la sua definizione è soppalco costruito sopra la tragedia. Sì, abbiamo un libro se lo porta a casa, sicuro. Ma sentiamo anche Isabella e Rinaldo. Di questi tre, Lella, tu scegli. Lo so, ti tocca, è qua. Isabella da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti. Sì, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, io penso, credo, che l'ironia sia innanzitutto una capacità critica di sorridere e di leggere in positivo delle situazioni, pur considerando e consapevoli che non c'è nulla da ridere nella vita e che appunto in qualche modo è una sorta di non tragedia, ma insomma che poco ci sia da sorridere, però ecco, una bella consapevolezza critica e di distacco, una critica di distacco. Rinaldo, buongiorno da Trento. Ciao, intanto un saluto a Lella Costa, anche alla conduttrice, ma Lella Costa per me è magica, quindi mi hai battuto come sempre. Ragazzi, non ti invito qua più spesso. Io non ti invito più, grazie Rinaldo, che ecco, sei ricordato anche di me. Subito al tema, che è questo: io ho quattro figli, il più grande di 26, il più piccolo di 12, e siccome ho una vita piuttosto ricca di esperienze dalla mia famiglia, mio papà che era operaio, il suo vissuto, sino a me che faccio giornalista. Ho tanti registri. Sì, Rinaldo, ho bisogno della definizione, scusi, ma dobbiamo andare. No, scusate voi. Sì, un modo per far riflettere i figli, ma anche per toglierli dal torpore in cui talvolta cadono dopo un brutto voto, ecco. Dopo un brutto voto. O qualsiasi altra cosa. Grazie Rinaldo. Grazie mille. Allora, Roberto, Isabella e Rinaldo, tre ascoltatori, tre libri, due della libreria di Essere Benessere, che sorteggeremo a sorte. Sorteggeremo a sorte, certo. Succede quasi sempre. Così con i sorteggi. Con i sorteggi, e nel senso che mettere bendate, bendatissime, quello che vi arriva, ma arriva da Essere Benessere, che porta buono. Mentre Roberto, Isabella e Rinaldo, devi scegliere, Lella, la definizione che insomma ti ha colpito di più. Ma faccio fatica, io volevo consultarmi con Giovanna perché la mia... Dai, allora Giovanna, fallo tu. Perché facciamo una giuria con... Allora, io devo dire che voi siete troppo lunghe. Io la do a Roberto, il libro di La Costa. Ma forse sì, palco costruito sopra la tragedia. È quella che si avvicina di più alla percezione dei diversi mood, diciamo così. Ecco, andiamo nel soppalco. Ristrutturiamo con Roberto. Ironia, però, Lella, sostantivo femminile. È singolare, sì. Non a caso. Beh, allora, però adesso, qui non possiamo non costituirci nella nostra lingua, è femminile, in altre lingue non esiste il genere delle parole in modo così, no? Quindi sì, però se vogliamo giocarcela, sì, ironia è un sostantivo femminile. Anche se tu nel tuo libro, non me lo aspettavo, ma sottolinei che non c'è una differenza di genere per quanto riguarda l'ironia, ma combinazione noi donne... No, non c'è una differenza di genere, nel senso che siccome... Sai com'è? A noi per attribuirci le qualità, le caratteristiche, fanno sempre un po' fatica. Guarda cosa ci ha messo con l'anima, hanno dovuto fare un concilio ecumenico, sempre pensato che si fossero pentiti un quarto d'ora dopo. Quindi l'ironia, la comicità, tutte quelle attitudini che hanno a che fare con uno sguardo sul mondo una narrazione pubblica di questo sguardo femminile sul mondo, è una cosa che sconcerta, perché è recente. Ci tengo a dire che invece la vocazione all'ironia, all'autoironia è sicuramente femminile e spero che lo sia anche molto maschile, ma io non faccio appunto delle analisi cliniche, mediche o sociologiche, racconto delle sensazioni. Assolutamente, e noi donne abbiamo una buona autoironia, l'abbiamo dovuta comunque, no? Abbiamo dovuta sviluppare per forza. È stata una necessità per sopravvivere. Per esempio, io ho un fratello bellissimo, e questo mio fratello bellissimo girava da adolescente, vero? Con una foto mia da bambina, perché ero tremenda, con queste orecchie a tazzina, no? mostrava la foto agli amici per farli ridere, no? Nei momenti un po' di stanca della conversazione vedevano la mia foto e ridevano, quindi cosa vuoi? Devo avere sviluppato per forza una certa autoironia, devi sopravvivere. Le donne, allora, in linea con noi, a proposito di donne, noi adesso ci facciamo serie, abbiamo il piacere di avere la donna dell'anno, la scienziata che ha guidato uno degli esperimenti del CERN che hanno confermato il bosone di Higgs, senza dubbio la particella dell'anno, scoperta la scorsa estate. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Fabiola Gianotti, fisico del CERN e coordinatrice dell'esperimento ATLAS. Buongiorno. E un applauso. Buongiorno virtuale. Ce l'abbiamo. Grazie, ecco. Grazie. Noi abbiamo anche l'applauso, stia lì, che grazie. È pronto? È così, sì, ovazione più che applauso. Wow, molto orgogliosa. Ieri la stampa, e io adoro la stampa, e insomma, comunque la stampa bellezza titolava per Time e Barack, per noi e Fabiola. È un titolo straordinario, c'erano le due copertine, lei era di profilo, no? Fotografata di profilo con questo abito rosso, con lo sguardo che andava. È un titolo che racconta tutto: soddisfazione, orgoglio, riconoscenza. Che effetto fa? Beh, diciamo che essere classificata da Time Magazine tra le 5 personalità dell'anno è chiaramente un grande onore. È stata una bella sorpresa, devo dire, a proposito di ironia, effettivamente. Non mi sarei mai aspettata di essere sulla copertina di un giornale così, così prestigioso. Ma è un onore, un riconoscimento che condivido con le migliaia di scienziati con cui abbiamo scoperto questa particella molto speciale, che rappresenta effettivamente un passo avanti molto importante nella fisica fondamentale. E io invece vorrei fare un passo indietro, al 4 luglio, che è questo giorno che rimarrà nella storia, nella nostra memoria. In questi 6 mesi di ricerca si sono aggiunte nuove scoperte, ulteriori conferme? Diciamo che abbiamo fatto passi avanti nella comprensione di questo bosone di Higgs, abbiamo fatto una specie di identikit non completo ancora, ma abbiamo fatto progressi, ma scoperte, diciamo che le scoperte non arrivano ogni giorno, il cammino della conoscenza è un cammino lungo, è un cammino durissimo, è anche un cammino bellissimo, ma va affrontato con estrema pazienza e con molta modestia e umiltà. Dottoressa, la ricerca richiede studio, impegno, determinazione, costanza, rigore. Mi chiedevo se in mezzo a tanta serietà c'è spazio per l'ironia, di cui stiamo parlando insieme a Lella Costa e all'amica Giovanna Luini. Assolutamente, sono d'accordo con Lella, che ho avuto il piacere di conoscere anni fa in un altro contesto. Lella, non so se ti ricordi. Ma quindi sei tu, io non mi capacito. Sì, sono io. Che miseria. Beh, a proposito di molteplicità di talenti, veramente. Ragazza mia, guarda, non sai quanto ci rendi felici, fiere. Ed no, ma tu, Lella, sei veramente una donna modello per molte... per molte di noi, ma comunque l'ironia è un ingrediente essenziale della vita, soprattutto l'autoironia. Nei momenti difficili è importantissimo, è importantissima. Vedi, no, allora, non volevo toglierti la parola. No, vai. Io sono senza parole intanto perché mi sembra pazzesco poter essere anche solo, ma non dico me, il mio lavoro paragonato al tuo e al vostro, però credo che ci sia in questo senso proprio un segno di ironia femminile, di auto, cioè questa cosa del non prendere se stesse come unica misura del mondo e condividere i meriti, condividere il lavoro, condividere la fatica, secondo me è una cosa che noi ragazze, per forza o per amore, abbiamo di più, e non sarebbe male se i ragazzi, a cui vogliamo abbastanza bene, tutto sì, sommato, certo, imparassero un pochino. Trovo che queste, le cose che ha detto Fabiano, siano bellissime e davvero commoventi, ma commoventi di cuore ma anche di testa, una specie di commozione cerebrale, insomma, siamo qua. Io vorrei far notare invece a tanti ricercatori, me compresa, che in tutto questo discorso non ha mai detto io. Non ce ne ha bisogno. Dottoressa Gianotti, qua lei deve venire una volta qua, dobbiamo rifare la puntata, io lei la ci raggiunge, figurati. Giovanna eccetera, sì, qua sì, in carne e ossa, ma prima di salutarla io volevo sapere, allora ci sono delle scoperte, ma lei mi corregga, che almeno a noi sembrano arrivare per caso, per ironia della sorte, come si dice, no? Sì. Ecco, che incidenza ha la casualità in una ricerca? Grandissima, altissima, si chiama ricerca perché non sappiamo quello che cerchiamo, altrimenti se sapessimo già qual è la cosa troveremmo non sarebbe una ricerca. In inglese c'è un termine bellissimo che si chiama serendipity, che si rifà a una favola antica, la favola persiana dei tre principi di Serendip. Questi erano tre personaggi, tre eroi che trovavano le cose più assurde senza aspettarselo. Ecco, questo è una delle basi della ricerca. Pensiamo a Cristoforo Colombo che partì per alla ricerca dell'India e trovò l'America. Ecco, quindi questo è, quindi la casualità ha un ruolo molto importante. Quanti scienziati hanno lasciato un campione radioattivo in una stanza la notte, hanno spento la luce, quando poi sono ritornati hanno trovato uno spettro speciale che indicava la presenza di un nuovo materiale, di un nuovo elemento chimico. Guarda Fabiola, trovo straordinario tutto quello che dici, mi viene in mente che tu hai dichiarato, o almeno così è stata riportata una frase bellissima, che la fisica è musica, che è una cosa che mi ha molto colpito perché è la ricerca dell'armonia, no? L'intuizione. E allora mi è venuto in mente un verso di un poeta contemporaneo, si chiama John Ashbery, che a un certo punto in una sua narrazione del mito di Orfeo peraltro, si domanda se tutto quello che accade in fondo non abbia a che fare con la musica e il modo in cui la musica scorre, emblema della vita, e come non puoi isolare una sola nota e dire se va bene o no, devi aspettare che sia finita. Mi sembra che sia, come dire, una piccola dedica alla bellezza e alla grandezza del tuo e del vostro lavoro, e grazie ancora. Grazie Lella, grazie a te. Grazie alla dottoressa Fabiola Gianotti, che aspettiamo grazie qui in studio. Con molto piacere. Buon anno. Grazie anche buon a voi. E un abbraccio. Un abbraccio a tutti voi. Ada, da Vicenza, buongiorno. Noi continuiamo con le nostre definizioni di ironia. Buongiorno a lei, Ada. Tutta noi signore. Allora, per me ironia è il sale della vita. Premettendo che ho avuto una commozione cerebrale svariati anni fa, penso che mi sia però aumentata, sinceramente. Penso che sia comunque dipeso dall'età, dalla crescita, dall'evoluzione, no? Sì. E quindi sale della vita, perché una vita senza sale è sciapa. Sono ironica e molto autoironica. Giorgio, Ada, stia lì. Giorgio da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Vediamo se fa un po' meglio di Ada. Non fai subito la competizione. No. Secondo me l'ironia è un intelligente sgambetto alla realtà, sintetica. Non male per essere un maschio. Infatti, vero, e per questo io ho detto vediamo se, perché l'ho attivato e lui nella competizione con Ada, che ci ha dato già il sale della vita, che mi sembra. E poi c'era un Claudio da Latina che è caduto, si è tolto, no, speriamo alla solo la linea, si è tolto, insisto, che non si è tolto dalla Claudio. Competition. Bugiardino, Lella, tu hai dedicato proprio un capitolo al bugiardino. E ho detto, avrà pensato a me. No, non ho pensato proprio a te, ma mi pento di non averlo fatto, avrei dovuto pensare a te. No, è semplicemente che dopo aver detto che non si può insegnare, che non si possono fare le istruzioni per l'uso, ho fatto, come dire, le istruzioni contro l'abuso. E soprattutto non credo si possa pensare che l'ironia sia una formula che applichi alle varie situazioni della vita per cavartela. Credo che ci debba essere proprio nel concetto di ironia una capacità di improvvisare, un ascolto continuo, quindi deve essere in diretta, non può essere una roba, cioè non ci può essere del repertorio, ecco. E allora mi sono divertita a mettere lì alcuni consigli. Tipo ad esempio in dose omeopatiche? Sì, è meglio non diffidare esagerare. Della persona che dice io sono teironico, in genere ironico, diffidare di anche tutti di quelli che dicono sono timido. No, soprattutto di quelli che dicono sono timido, cioè e mi sembra un'offesa nei confronti delle persone che sono realmente timide. Uno che dice in pubblico io sono molto timido è un ossimoro, cioè se sei molto timido in pubblico non riesci neanche a dire il tuo nome, figurati a svelare una roba così di te. Quindi insomma, quelli che si autodefiniscono e di cui sfuggono le opere, diffidare un po', verificare sul campo, si dimostra di essere ironici, non c'è bisogno di dirselo. Uno dei consigli più importanti di questo libro è non ironizzare mai sull'amore, soprattutto sulle dimensioni fisiche dell'amore. Sì, no? Nel senso che no, è un po' più ampia cosa. Diffidare in genere delle formule. Allora, la formula che va per la maggiore nella sessuologia contemporanea è: bisogna parlare di tutto, errore madornale, e una coppia funziona se ride a letto. Dipende da chi ride di cosa. E soprattutto non bisogna mai dimenticarsi che l'ironia condivisa funziona se si ride con qualcuno, meno se si ride di qualcuno, soprattutto se sei a letto con lui. Questo proprio ho detto. Questa è una regola. Una regola in generale. Aurea. Sì. Sì. O con lei, per carità. No, certo, non è riferita. Vabbè, certo, se la prima reazione che hai quando vedi qualcuno che si avvicina a te a letto è ridere, forse non è proprio una situazione ideale. Quindi concordo che l'ironia... Vedi, cioè anche il supporto della scienza. Sì, assolutamente, della scienza è d'accordo. Sandra, buongiorno da Brescia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Posso dare la mia definizione? Deve. Allora, anzi, me... sarebbe gradita, così piace di più a Lella. Allora, l'ironia è un modo di vedere la realtà e il mondo, gli aspetti più nascosti di questa realtà, di questo mondo, e di andare di vederne però gli aspetti più nascosti, ma gli aspetti più veri. Quindi è andare oltre le apparenze e la superficialità, ma in un attimo, come affondare un ago in un substrato, e in un attimo cogliere quella che è l'essenza della verità. Quindi vedere tutta la realtà, vederla intera. Cioè vedere gli aspetti che generalmente, così nei rapporti, nella conoscenza, sono così superficiali, così diciamo consolidati secondo le convenzioni, e invece andare oltre le convenzioni, oltre questo strato che... Cogliere il dettaglio, possiamo dire così. No, cogliere l'essenza. Cogliere l'essenza. Ancora più profonda. Sandra da Brescia, viene Bruno da Milano e Cristiana da Mantova. Buongiorno Bruno. Sì, buongiorno. Una definizione di ironia. Un po' rapida però. Sì, sì, è rapidissima. Per me essere ironico vuol dire essere un po' un tamburo. Per generare musica bisogna essere battuto. E quindi altrimenti sei zero. Sento la voce ma non capisco le parole, cioè non sono sicura, cioè, quindi l'ironia prevede che si sia anche disponibili a essere battuti, cioè bisogna essere battuto, nel senso che devi se il tamburo se non è battuto non genera musica, quindi è zero, no? Okay. Sì, okay. Questo siamo d'accordo. Non riesco a capire il passaggio successivo. È un libro aprile, avrò la corteccia. Sì. Anche Bruno un libro. Cristiana da Mantova. Buongiorno a buongiorno. Tutti. Allora, meno ermetico, Cristiana, meno ermetica, sempre sintetica, ma meno ermetica di Bruno. Perché vabbè, ma mi piace la varietà. Allora, l'ironia per me è il senso del contrario. È come il coraggio di Don Abbondio. Chi non ce l'ha, non se la può dare, non se la può inventare. Ed è nemica dell'eros. La donna ironica spaventa gli altri, spaventa gli uomini. L'uomo che si accosta a una donna ironica si dimentica persino della bellezza. Pensiamo a Monica Vitti. Donna bellissima di cui ci si è sempre scordati nel senso stretto della bellezza. Io su questo, su Cristiana, sul contrario, gli opposti eccetera ci sono, sull'ironia che spaventa gli uomini, se, quelli che si spaventano sono da eliminare. Sì, sono da eliminare loro. Cioè è una selezione naturale. È una selezione naturale. Nel mio libro io cito una bellissima frase di Sharon Stone, donna bellissima, intelligentissima, attrice strepitosa, che dice forse le donne fingono gli orgasmi, ma gli uomini sanno fingere intere relazioni. Secondo me questa è la dimostrazione che si può essere bellissime, ironicissime. No, cioè no, non legherei l'ironia femminile a una sorta di deterrente nei confronti delle relazioni, perché allora vuol dire che non c'è speranza per nessuno. Forse gli uomini sono un po' meglio, o comunque aiutati possono farcela, o no? Giovanna, chiedo a te, sì, sei il guru. Assolutamente. Ormai è diventata il guru. Assolutamente d'accordo, naturalmente. Quando mi chiamano guru io mi esalto. Esalti. No, in realtà però ho tutta un'esperienza di vita di donna che se la deve cavare, con un aspetto fisico gradevole, però certamente non è che facciano la coda lì fuori prendendo il numero per vedermi. Non è detto. Però l'ironia ti serve, anzi. L'ironia ti serve perché ti aiuta, certo devi usarla in modo un minimo intelligente, però penso che insomma ce la possiamo fare anche con tu l'ironia. Tu dici che poi, aiuta ad avere delle relazioni non necessariamente sentimentali ma anche decenti, può aiutare. Penso di sì, mi fa piacere che comunque sia stata ricordata quella donna meravigliosa che credo si debba dire che è stata Monica Vitti, è persa nel più cupo e infame dei mondi, quello della perdita della memoria, qui a me capita di pensare molto spesso anche perché me, è stata un sole, però credo che sia stata anche una donna molto molto molto amata e questo per i suoi talenti, insomma per la sua bellezza e molteplicità, ed è credo sempre molto bello ricordarselo. Lamberto da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Siamo pronte. Sì, per me l'ironia è la capacità di dire una verità scomoda facendo sorridere. Probabilmente tutti, forse tranne il beneficiario, quello che in realtà ha da imparare qualcosa. Perché non è sempre facile accettarla, eh? No, soprattutto se non la pratichi. È vero che riconoscere l'ironia negli altri vuol dire riconoscerla in sé, e quindi io credo che di tutte queste definizioni, cioè forse sono concetti troppo alti ma anche un pochino troppo rigidi, la verità, l'assoluto. Credo che l'ironia sia in qualche modo incompatibile con le definizioni assolute. Mi accontenterei di una capacità di sguardo sghembo che a volte tira fuori una verità scomoda o non gradevolissima, a volte invece semplicemente sorprende, anche solo per il gusto di sorprendere, perché io insisto, ribadisco, l'ironia non ha necessariamente a che fare con la comicità, col divertimento, però quando è anche divertente è la roba più bella che ti può capitare, perché ti sorprende, ti dà una visuale, una prospettiva che non hai mai avuto fino a quel momento, quindi io direi che abbiamo tante definizioni, ma un rimando è proprio come il titolo del tuo libro, come una specie di sorriso. Beh, adesso non vorrei essere troppo seriosa, eh? No, ma come una specie di sorriso. Quindi ci lasciamo con quello. Sì, grazie a Leila Costa, a Giovanna Luini, a Matteo Comes in regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Noi torniamo non domani, è sabato, no, lunedì, lunedì. Radio 24. La passione si sente.